GR24, il sole 24 ore. L'appello di Napolitano, l'imperativo adesso è crescita per i giovani. Fornero non è un bel primo maggio. La Lega alla ricerca di una nuova unità dopo gli scandali. Maroni, governo a casa entro questa estate. Affonda un traghetto in India, a bordo forse 500 persone. Prende una pasticca di ecstasy in discoteca e muore un ragazzo di 19 anni nel Bergamasco. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ripartiamo dunque dalla cerimonia al Quirinale per la festa dei lavoratori, una festa che cade in un momento di grande difficoltà, come sappiamo, per il paese, di tensioni per la riforma del mercato del lavoro. Un momento duro per l'Italia, non lo nasconde il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano durante le celebrazioni al Quirinale per il primo maggio. Chiede lavoro per i giovani, non solo, ricorda anche chi si è tolto la vita. Anche i casi estremi del lavoratore sull'orlo della disoccupazione o dell'imprenditore sull'orlo del fallimento che si tolgono la vita non possono non addolorarci e scuoterci. Arriva il monito del Capo dello Stato, non ci si può arroccare nelle posizioni, bisogna approvare la riforma del mercato del lavoro, bisogna superare le vecchie contraddizioni paralizzanti, è necessario predisporsi al cambiamento, la gente lo esiga dagli evasori. Che la realtà con la quale occorre misurarsi non è più quella di un decennio o di alcuni decenni fa e non può essere affrontata arroccandosi nelle conquiste del passato, ma riformulando le proprie ragioni. Precedentemente l'intervento del ministro del welfare Elsa Fornero. Questo non è un bel primo maggio, dice Fornero. La ricorrenza del primo maggio non può essere un tempo soltanto di celebrazione né soltanto di rassegnazione. Deve anche rappresentare un momento di riflessione sul lavoro nei suoi molteplici aspetti e soprattutto di fermi propositi su buoni cambiamenti possibili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Quirinale. Intanto a Rieti la manifestazione dei sindacati in attesa nel pomeriggio del tradizionale concerto di Piazza San Giovanni a Roma. Sul palco si sono succeduti tre leader sindacali. Sentiamo il segretario della UIL Luigi Angeletti, della CISL Bonanni e della CGIL Susanna Camusso. È ora di battersi perché questa politica di questo governo cambi. E ovviamente non escludiamo nessuna iniziativa che serva a far cambiare questa politica economica. Noi questo paese lo vogliamo salvare, ma per salvare questo paese dobbiamo salvare la gente che ci lavora e dobbiamo salvare gli italiani. Questo è il senso di questa festa in questa città nel 2012. Grazie e viva l'unità sindacale! Dobbiamo unirci, reagire alla crisi che è tale per mancanza di cambiamento che deriva da un concetto, non più affidarci a singoli, politici o tecnici che siano, è la malattia che ha corroso le fondamenta della democrazia italiana e forse anche europea. Perché non si fa l'accordo con la Svizzera sui capitali che sono andati in fuga? È semplice, e la Germania da cui prendiamo tante lezioni l'ha fatto. Perché non si dà la priorità alla legge sulla corruzione? Perché non si reintroduce il falso in bilancio? Perché non si decide che è la legalità la strada che dobbiamo seguire? Questo dunque a Rieti, andiamo ora invece a Torino. A Torino il corteo del primo maggio si è aperto con una contestazione, lo state sentendo, al sindaco Piero Fassino da parte di alcuni giovani del centro sociale Ascatasuna. È esplosa anche una bomba carta, tre giovani sono stati accompagnati in questura. Sentiamo Fassino al microfono di Anna Migliorati. È successo nulla di grave, è successo come tutti gli anni che c'è un gruppo che diciamo usa il primo maggio per manifestare le proprie ragioni di contestazione, poi che quest'anno il problema è la questione degli asili nido. tagli finanziari e blocco delle assunzioni non consentono di continuare ad avere tutti questi servizi in gestione diretta e quindi ci predisponiamo a dare 10 di queste strutture in concessione. Voi sindaci non vi sentite un po' in prima linea? Noi siamo in prima linea e difatti rivendichiamo che i tagli siano fatti con equilibrio e siano fatti secondo principi di equità. Vede, quando un ministero fa un taglio, taglia sul bilancio. Quando una regione fa un taglio, taglia sul bilancio. Quando un comune deve fare un taglio, taglia sulla vita dei cittadini. Questa è la differenza. Le contestazioni di oggi erano più per Piero Fassino, secondo lei, o per le politiche dei tagli del governo? Ma tutte e due le cose, evidentemente, ma ripeto, da parte di persone che esprimono un disagio senza porsi il problema di come dare una risposta concreta ai problemi che i tagli pongono. A Zanica nel Bergamasco la manifestazione della Lega che invita alla disobbedienza fiscale. Ci colleghiamo con la nostra inviata Maria Luisa Pezzali. Sì, buongiorno. Partiamo dalle parole di Umberto Bossi qui al Lega Unita Day. Non ha rubato nessuno. Dopo questa tegola in testa ha detto ci metteremo a correre più di prima. Sentiamolo. Chi ha sbagliato? Se un ladro? Se... No, ha sbagliato perché avevamo dentro un disgraziato, uno che non era dei nostri, non era della nostra gente. Davanti a poco più di un migliaio di militanti, lo Stato Maggiore del Carroccio ha lanciato l'obiezione fiscale contro l'IMU. Chi tocca la casa deve andare a casa, ha detto Roberto Maroni dal palco, lo ha ripetuto a margine. Se aderiranno tutti i comuni, anche di altri partiti, ha ipotizzato, il governo andrà a casa prima dell'estate. Sentiamolo. Se ci sarà l'adesione di tutti i comuni, pensiamo che questo possa servire per mandare a casa il governo prima dell'estate. Il Carroccio dunque rispolvera lo strumento della disobbedienza civile per ritrovare l'unità dopo i guai giudiziari, rilanciare l'iniziativa politica alla vigilia delle elezioni amministrative. Il raduno è terminato, ora i vertici del Carroccio partecipano al tradizionale pranzo del lavoratore padano. Maroni ha dato appuntamento al 25 maggio prossimo alla conferenza dei sindaci padani a Seriate, sempre qui in provincia di Bergamo, per la messa a punto delle iniziative per la disobbedienza fiscale contro l'IMU. Qui da Zanica è tutto, linea allo studio. Grazie a Maria Luisa Pezzali. La rivolta fiscale della Lega contro l'IMU è solo un modo per prendere voti, è l'opinione del sindaco di Firenze Matteo Renzi, intervistato da Valentina Furlanetto. Ma la posizione della Lega è abbastanza ridicola, perché se vogliamo dirla tutta, l'IMU è stata introdotta come tassa nell'ordinamento italiano proprio dalla Lega, o meglio, stava dentro il cosiddetto federalismo fiscale, che poi era molto fiscale e poco federalismo. Il governo Monti l'ha anticipata secondo me male, perché la chiama imposta municipale, però è un'imposta statale che va nel calderone delle spese dello Stato. Niente rivolta fiscale, quindi? No, la rivolta fiscale è una barzelletta, è un modo per prendere un voto in più alle elezioni del 6 maggio. Però insomma, i cittadini italiani non è che sono stupidi, lo sanno quando sono cose serie o no. La rivolta fiscale fatta da una forza politica che è stata gli ultimi 10 anni, 8 anni al governo, è una barzelletta. Avessero fatto le riforme prima, anziché le rivolte poi. Ancora bombardamenti in Siria ad opera dell'esercito di Assad. Almeno 10 civili, fra cui 9 componenti di un'unica famiglia, sarebbero rimasti uccisi nella provincia di Idlib. Della famiglia sterminata facevano parte anche 4 donne e 2 bambini. Un traghetto è affondato nello stato indiano dell'Assam. Oltre 100 i morti accertati, molti donne e bambini, e 100, addirittura 200 potrebbero essere i dispersi. Infatti non si sa ancora quanti fossero i passeggeri a bordo del traghetto travolto da un forte vento. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha incontrato per la prima volta stamattina la leader dell'opposizione di Myanmar, Aung San Suu Kyi, a Yangon. Ban Ki-moon è stato ricevuto nella residenza privata di Aung San Suu Kyi, divenuta deputata dopo le elezioni suppletive del 1 aprile scorso. Europei di calcio, non sospensione ma trasloco per protesta contro il carcere duro di Yulia Tymoshenko. L'ex premier ucraina continua lo sciopero della fame iniziato il 20 aprile. potrebbe essere la soluzione che salva la faccia a tutti, salvo all'Ucraina e agli ucraini. Non cancellare gli europei, ma traslocarli. La Germania è già pronta e rodata. I mondiali di calcio in fondo risalgono solo a 6 anni fa. Ci sono piani pronti da tempo, ha detto in una intervista il presidente del sindacato di polizia tedesco Vitau. Piani predisposti con la UEFA, il Ministero degli Interni tedesco e la Federazione Calcio Tedesca. Lo si fa sempre, dice il sindacalista, in caso di grandi manifestazioni in paesi politicamente instabili. Al Ministero dell'Interno però smentiscono e il direttore del torneo Kallen, dopo la strapazzata che deve aver subito dall'UEFA per aver ventilato l'ipotesi di rinviare gli europei, ha escluso cambiamenti a breve termine. Ma come il fronte del boicottaggio ai suoi sostenitori, anche quello del trasloco li ha. Anche se, come ricorda il Comitato Olimpico Internazionale, boicottare lo sport non è mai servito a nulla. Piuttosto, dice Dino Zoff, bisogna andare da uomini, non da struzzi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È morto agli ospedali riuniti di Bergamo il ragazzo di 19 anni che si era sentito male nella notte in una discoteca di Osio Sopra, nel bergamasco. Il giovane, ricoverato in coma verso le 3 del mattino, aveva avuto un malore dopo aver probabilmente ingerito una pasticca di ecstasy. Originario dell'India, era stato adottato a 10 anni da una famiglia di Dalmine. Da tempo soffriva di problemi cardiaci. È controllata a vista la donna che ha confessato in Calabria di aver ucciso marito e figlia. Ha confessato Domenica Ruggiano, moglie e madre di Vincenzo e Rosa Genovese, uccisi a fucilate venerdì scorso a Villa Piana nel Cosentino. La donna, dopo il duplice delitto, ha tentato il suicidio ma è riuscita solo a ferirsi ad un'anca. Nella prima versione fornita agli inquirenti, la Ruggiano, 54 anni, aveva parlato della presenza di un estraneo in casa, ma non era stata molto convincente e dopo il suo ricovero in ospedale era stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Castrovillari. L'attenzione degli investigatori si è subito concentrata sull'ambiente familiare. Da una prima ricostruzione era infatti emerso che chi aveva sparato doveva conoscere bene la famiglia. Sapeva che Vincenzo Genovese, un agricoltore di 67 anni, possedeva un fucile, sapeva dove lo custodiva e aveva accesso alla casa. Nell'interrogatorio, a conclusione del quale Domenica Ruggiano ha confessato, ha parlato di contrasti con il marito che si sarebbero trascinati da tempo. Ma in merito all'assassinio della figlia Rosa di 26 anni, la donna, che appare tuttora molto confusa, non ha fornito spiegazioni. Adriana Fracchi, era Radio 24, Il Sole 24 Ore. Saranno tutti scarcerati 12 attivisti arrestati sabato per il blitz all'allevamento Green Hill di Montichiari, nel Bresciano, dove vengono allevati cani destinati alla ricerca su medicinali e cosmetici. Michela Quan, responsabile del settore vivisezione per la LAV, la Lega Anti-Vivisezione, al microfono di Alessandro Milan. È giusto portare l'opinione pubblica concentrata su questo argomento, perché la sperimentazione animale viene in parte finanziata coi soldi di tutti i cittadini che pagano le tasse, quindi loro devono sapere che cosa succede, quindi è giusto una trasparenza verso un mondo che per molti anni è rimasto completamente chiuso. Il gesto fatto a Green Hill purtroppo non serve a nulla, nel senso che non è questo il modo di salvare gli animali, è il modo per far parlare del problema. L'unico cambiamento per cui noi lottiamo, oltre all'informazione, è il cambiamento legislativo, dove al momento non c'è nessuna proposta di legge che vieta la sperimentazione. Ci sono delle proposte di legge che limitino perlomeno la sofferenza, obbligano l'anestesia. Al momento quello che però dobbiamo fare e su cui bisogna concentrarsi è quello di ottenere dei miglioramenti perlomeno nella stabulazione e nell'utilizzo di questi animali, che hanno diritto di avere uno stato di benessere più alto rispetto a quello che c'è al momento, che praticamente rasenta lo zero. La festa dei lavoratori, ne abbiamo parlato abbondantemente nella prima parte di GR24, una festa che si fa spettacolo questo pomeriggio a partire dalle 15 con il concerto del 1° maggio organizzato da CGL Cisle Uil, come da tradizione in piazza San Giovanni a Roma. La musica del desiderio, la passione, la speranza, il futuro è il tema dell'edizione di quest'anno. Sentiamo Paolo Mezzio della CISL. È un'offerta musicale di grande qualità che mette al centro le questioni che noi non possiamo nascondere, che sono il problema della crisi, il problema della crescita, il problema dello sviluppo. Durante il concerto ci sarà dedicato un minuto di silenzio a tutti i morti sul lavoro. Questo credo che sia un momento importante, si aprirà nel segno dell'unità del nostro paese, a prescindere dalle coordinate geografiche, con l'inno nazionale, l'inno di Mameli. Questo è un bel segnale, tenendo conto che la mattina ci sarà la manifestazione a Rieti, poi il concerto sarà, diciamo, la parte finale di una stagione come quella che tende a, a creare unità e soprattutto a guardare al futuro con una serenità diversa e una prospettiva positiva per questi ragazzi che corre il rischio di non avere né futuro né prospettiva. E a presentare l'evento Francesco Pannofino e Virginia Raffaele, la Belen di quelli che è il calcio. Luci spente a metà concerto per ricordare i morti sul lavoro, con un riferimento particolare a Matteo e Francesco, che hanno perso la vita montando i palchi per i concerti di Jovanotti e Laura Pausini. Sindacati uniti nei confronti del sindaco di Roma Gianni Alemano, che intende far pagare loro le spese per la pulizia e per i trasporti. La CISL risponde: ne parliamo dopo il concerto. Così invece Carmelo Barbagallo della UIL. Ci sarà un palco che riesce a ospitare un'orchestra, qualcuno ha detto il sacro con il profano, mettendo insieme la lirica e la musica leggera, il classico e tutto ciò che è di moderno. Quest'anno metteremo pure il rock insieme alle altre musiche, quindi si immagina come questo non è un evento di una cultura incredibilmente appropriata in un paese che con tutte le difficoltà deve sperare in un futuro migliore. E siamo al calcio, torna oggi in campo con due anticipi la Serie A alle 18 Chievo-Roma, alle 20:45 Napoli-Palermo. Si gioca anche tutta la Serie B. Ed era l'ultima notizia di questo GR24, vi lascio ai programmi di Radio 24. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.